amor non avrai mai da me. Sono qui ed aspetto. Chi mi può far felice? Ma tu ruberà il mio cuore. No, non pensarmi ancora, perché troverò chi fa per me. Anche tu, come gli altri, anche tu non avrai i miei baci, non ho amato mai, ma io sento che proverò prima o poi il mio amore, troverò. Prima o poi il mio amore.